Radio Andarosso 87.9, siamo in collegamento con Livio da Rio de Janeiro, nostro corrispondente dal Brasile, che salutiamo e gli chiediamo se ci sente bene. Sì, vi sento benissimo, buongiorno. Ciao, allora, con te per fare un aggiornamento rispetto alla situazione del Covid in Brasile, ma non solo, anche di politica interna rispetto al presidente Bolsonaro. Ci siamo lasciati qualche settimana fa appunto, con lo stesso Bolsonaro che in qualche modo cercava di minimizzare i rischi del Covid e di far passare la linea per cui fosse una macchinazione sostanzialmente dell'Occidente o comunque della Cina per fermare la macchina brasiliana e con un approssimarsi di una crisi interna rispetto al proprio governo in cui non tutti erano d'accordo con la sua versione dei fatti. Nel contempo un numero di contagi in aumento e una situazione ovviamente difficile per le già complesse condizioni igienico-sanitarie delle metropoli brasiliane, in particolare delle favelas. Quello che ti chiediamo è anzitutto un panorama generale della situazione adesso a 3 settimane di distanza dall'ultima corrispondenza che abbiamo fatto in relazione alla questione sanitaria e al Covid-19. Allora, dall'ultima volta che ci siamo sentiti, la situazione è ovviamente peggiorata moltissimo, i casi sono raddoppiati, ora siamo a 66.000 casi confermati di Covid e siamo arrivati ad avere 4.500 morti in tutto il Brasile. E gli stati maggiormente affettati sono stati San Paolo, con 20.000 casi, Rio de Janeiro 7.000 e nel nord-est, lo stato di Ceará, con 6.000 casi. E ovviamente diciamo anche di aumento di preoccupazione da parte del Ministero della Salute, no? In voler continuare a seguire le norme dell'OMS. Che ha portato al licenziamento da parte del presidente, del ministro della salute, della sanità, che è stato sostituito con un altro soggetto che era proprietario di una catena di cliniche private e che già da tempo per la sua clinica, no, diciamo, affermava che le priorità per gli investitori dovrebbe essere in persone giovani con capacità produttive, mentre gli anziani prima o poi dovrebbero morire. Quindi ecco, diciamo, questo è il nuovo soggetto che oggi si occupa di dover gestire la crisi sanitaria data dalla pandemia. Il presidente continua a insistere che l'economia non si può fermare, che la produzione non si può fermare. E ovviamente con l'appoggio di tutta la borghesia, i padroni, no, del paese e con la tragedia di migliaia e migliaia di persone che continuano ad andare a lavorare, che sono obbligate ad andare a lavorare sia da parte dei propri padroni, sia per necessità. No, di alimentarsi, insomma, di provvedere alla propria sussistenza, anche se il governo ha provvidenziato a far avere un aiuto, no? Perché non si può neanche chiamare reddito, è la metà di un salario minimo, quindi ecco, sono 600 reali, sono 200 euro al mese, poi diversi numeri di ritardi per far avere a tutte le persone che l'hanno richiesto. E la concentrazione del Brasile, no, diciamo, nelle grandi città, soprattutto di San Paolo, anche a Fortaleza, in Ceará, no, c'ha delle concentrazioni urbane, l'altra volta già ne avevamo parlato, molto forti, soprattutto in periferia, il che po sta portando a uno spargersi della pandemia e in un contesto di assenza delle giuste cautele e misure di sicurezza in uno spargersi della pandemia molto molto molto pericoloso. Forse alcuni ascoltatori avranno visto le immagini a Manaus in Amazzonia, delle fosse comuni che sono state fatte dal municipio, perché appunto, diciamo, non solo sono innumerevoli i casi che si susseguono, però anche, diciamo, una completa mancanza di resistenza e di capacità di gestione da parte dell'istituzione, insomma, del municipio, dello Stato, nel poter gestire la pandemia con i corpi delle persone che rimangono nelle case per più di 24 ore aspettando che possano arrivare gli addetti per prelevare, no, i corpi. Ascolta, in relazione a questo, proprio visto che hai tirato anche fuori la questione, il Papa Francesco nei giorni scorsi ha chiamato il Vescovo di Manaus per mostrargli la sua solidarietà rispetto alla situazione, appunto, dello Stato brasiliano di Amazonas, che conta ormai più di 3.600 casi e oltre 280 morti, quindi una situazione assolutamente complicata, considerando appunto che la curva dei contagi è in salita. Peraltro, nei giorni successivi, proprio in questi giorni, c'è già una richiesta di messa in stato di accusa, di impeachment per Bolsonaro, firmata da 19 organizzazioni di chiese cristiane e da altri vari organismi legati alla Chiesa, più a cui si aggiunge anche una specie di crisi all'interno del fronte delle destre, che prima era unito a sostegno di Bolsonaro. Lo stesso ministro, ex ministro alla salute Mandetta, che tu hai detto essere stato appunto cacciato proprio pochi giorni fa, ha già espresso il desiderio in qualche modo e ha fatto già capire che potrebbe concorrere alle prossime presidenziali. Quindi quello che ti chiedo è se c'è effettivamente la possibilità di una messa in stato di accusa di Bolsonaro, e che temperatura c'è anche nell'opinione pubblica rispetto allo schierarsi di un ente così forte come la Chiesa contro il presidente. Allora, la Chiesa Cattolica in Brasile già da un po' di tempo, no, con Papa Francesco, come dire, ha perso una certa considerazione politica, perché con questo posizionarsi, diciamo, più progressista, i settori conservatori hanno iniziato a sconsiderare, no, un po' ciò che dice il Papa, anche accusandolo di comunismo e cose del genere. Ma soprattutto perché ormai, e questo già da prima, molto prima di Papa Francesco, insomma, in Brasile si va configurando un'egemonia religiosa da parte delle chiese evangeliche neopentecostali, no? Quindi, diciamo, protestanti, che non riconoscono sostanzialmente il Papa di Roma, e che proprio in questo contesto di pandemia sono tra i settori che si rifiutano, si volevano poi addirittura rifiutare di chiudere i propri templi e le proprie chiese, e essendo obbligati a ciò hanno iniziato a fare culti per strada, insomma, una situazione abbastanza difficile, e sono uno dei settori sociali che più appoggia ed è riuscito a riunire sostenitori nella popolazione al governo. Quindi, diciamo, anche se gli appelli del Papa hanno una certa risonanza mediatica, in Brasile ormai hanno poca rilevanza, insomma. E la crisi politica è arrivata a uno dei suoi punti massimi con le dimissioni del ministro della giustizia Sergio Moro, che è stato tra i principali articolatori e giudici del processo a Lula, no? Il processo a Lula, che poi, va bene, si era stata evidenziata la farsa con lo scandalo della divulgazione dei messaggi Telegram tra questo giudice e uno dei procuratori della Repubblica. In ogni caso, questo giudice Moro è sempre stato, no, diciamo, già da prima della campagna elettorale, uno dei simboli della destra brasiliana, dell'anticorruzione e dell'antilulismo, e che con la sua uscita mette in scacco dentro alla destra la legittimità del governo. Lui è uscito protestando contro l'interferenza del presidente nel sostituire il capo massimo della Polizia Federale, no? E quindi, diciamo, protestando contro questa azione e accusando il presidente di fare ciò per voler blindare l'investigazione che era in atto contro uno dei suoi quattro figli e anche il figlio in politica, insomma, deputato federale. E quindi, diciamo, accusando proprio il presidente di nepotismo, di, no, diciamo, blindare la propria famiglia contro investigazioni di corruzione, eccetera, e che quindi, diciamo, pone in scacco la legittimità del presidente e che anche, diciamo, è stato avviato dal Supremo Tribunale Federale un procedimento di investigazione contro il presidente. Quindi, ecco, diciamo, siamo alle soglie di un'escalation, no? Di questa crisi che può portare a seri sconvolgimenti, dipendendo anche di come la cupola delle forze armate vorrà incidere in questo processo. Sì, Ci diciamo senti? questo. Ah, ecco, il presidente ha fatto una, però qua senza dilungarsi, perché insomma il presidente ha fatto una dichiarazione alla stampa di ben 45 minuti in cui parlava a vanvera, parlava dell'adolescenza del figlio, parlava della piscina della residenza presidenziale. Insomma, citando una serie di questioni proprio completamente fuori luogo, il ministro dell'economia che si è presentato senza scarpe, e insomma, scene abbastanza surreali a cui ormai ci stiamo abituando qui in Brasile. E fanno anche un po' sorridere. Senti, in chiusura, l'ultima domanda è se ci sono state, perché da queste parti i media riferiscono di proteste legate soprattutto alla sepoltura in fosse comuni dei morti per Covid, perché ovviamente se pensiamo che anche qui in Italia ci sono difficoltà nella tumulazione dei morti, figuriamoci in un contesto come quello del Brasile. Però ti chiediamo a te, visto che sei sul campo, se ci sono proteste o mobilitazioni di qualche tipo da parte della gente e se ci sono state sollevazioni in queste settimane. Allora, non massivamente, però in effetti a Manaus durante la sepoltura c'è stata molta indignazione da parte dei familiari delle vittime, che ha portato a un intervento della polizia per placare, insomma, la rabbia delle persone quando hanno visto, no, diciamo, il tipo di sepoltura in fosse comune a cui stavano sottoponendo i propri cari. E ovviamente, diciamo, il contesto di mobilitazione è difficile, anche se il tasso di quarantena è diminuito gravemente. Diciamo, qui a Rio de Janeiro dal 70% siamo scesi al 58% di persone in quarantena. E però, diciamo, insomma, per chiudere rispetto a questa cosa della protesta, diciamo, è importante dire che, diciamo, la mobilitazione da parte dei settori sociali e politici organizzati, insomma, fuori dal Parlamento, stanno, diciamo, mettendo in campo una serie di azioni di solidarietà in favela, quartieri di periferia, occupazioni abitative, assieme a movimenti contadini per riuscire a portare cibo, sostegno, no, diciamo, insomma, e un minimo di cura collettiva in mezzo a questa situazione di pandemia. Perfetto, Livio, sei stato molto chiaro come al solito. Se non hai nulla da aggiungere, noi ti salutiamo e sicuramente ci risentiremo nelle prossime settimane per un aggiornamento da quello che si annuncia comunque un fronte interno particolarmente caldo, non solo dal punto di vista dei contagi, ma anche dal punto di vista politico, come abbiamo visto poco fa nel governo brasiliano. Un saluto, a risentirci presto. Grazie, un saluto a tutti e sicuramente quando ci risentiremo parleremo della questione dell'istruzione che qui le università tra rifiutarsi di fare i corsi a distanza e minacce di privatizzazioni da parte del governo, insomma, promettono di mettere in campo forse qualche azione, qualche dimostrazione di lotta. Quindi, insomma, a presto e speriamo di riuscire a uscire da questa situazione. A presto, grazie. Saluto.